Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Torniamo oggi ad ascoltare alcune voci, una in particolare dal focus di approfondimento Cos'è la carità, organizzato dalla Caritas Padova qualche mese fa. Sentiamo la voce di Maria Teresa Stimamiglio. L'uomo è stato creato per amare e l'amore ha tanti colori e tante sfumature. Allora la carità per me è un atteggiamento permanente che la persona vive e che è molto diverso dall'accezione comune che la identifica con il fare l'elemosina o con il dare qualcosa a qualcuno, anche se questa è una dimensione importante. Allora la carità ha a che fare non solo con tutte le esperienze di amore umano, ma con ogni espressione positiva e autentica dell'essere uomo e dell'essere donna, al di là della propria confessione religiosa. È un bisogno, un imperativo del cuore di ogni persona di dare e di ricevere amore, di dare e di ricevere cose buone per la vita e di farlo nella quotidianità, non in un episodio straordinario. Per me carità è amore per la mia persona e per ogni persona, in qualsiasi situazione si trovi. Allora è quella capacità di tenerezza, di avvicinarsi all'altro, che è propria di Dio. Se dovessi tentare a questo punto una definizione, direi che la carità è il dono totale e gratuito di me stessa e i fratelli, come Dio ha fatto con me. Lo è proprio di Dio, lo è proprio anche di noi. E non dobbiamo dimenticare che la carità nasce da Dio e va domandata anzitutto a Dio come, no, come dono. Per chi crede, nasce dalla fede e si coltiva con la lettura e la meditazione dei Vangeli, perché il Vangelo ci aiuta a comprendere come Gesù ci ha amato, ci ama, come Gesù ha amato e trattato i piccoli, i poveri, i malati, le persone lontane, i nemici. Vivere la carità, prima di tutto, è un cammino per umanizzarci. E per me questa parola ci dice che l'essere umano è capace di vivere la carità perché è capace già nel suo cuore di discernere e operare il bene. Maria Teresa Stimamiglio, dal focus di approfondimento Cos'è la carità, organizzato da Caritas Padova. Sentiamo anche il gesuita padre Guido Bertagna. Per dire la carità, che poi è una contraddizione un po', perché la carità si fa e si vive più che dirla, no? Biblicamente il percorso di carità entra dai piedi più che dalla testa, cioè entra dal cammino, perciò è legato a quell'esperienza fondamentale, non soltanto dal punto di vista biblico, ma anche dal punto di vista esistenziale, cioè dell'entrare nella vita adulta di ognuno, che è l'esodo, cioè l'uscire da sé, l'uscire verso una terra che non si conosce, affrontare tutti i rischi che questo cammino comporta, tra i quali il doversi fidare di qualcuno o il mettersi nelle mani di qualcuno. Allora, tutta l'esperienza di Israele da questo punto di vista è veramente fondativa, non soltanto direi in un certo senso del percorso biblico, ma anche dell'esistenza. Non c'è nessun ingresso nella vita adulta e dunque in un amore adulto che non debba fare questa uscita da sé, in una capacità di voler bene che chiede un esodo e chiede tutta la bellezza dell'avventura e tutti i rischi dell'incertezza che questo cammino comporta. Il cammino biblico che insegna la carità dice che l'indicativo precede l'imperativo e lo fonda. C'è un errore che continuiamo a perpetuare proprio nell'insegnamento del catechismo. Cioè, quando insegniamo il decalogo, anche nelle versioni di catechismi più recenti, io sono il Signore Dio tuo, punto, non avrai altro Dio lì fuori di me. biblicamente, sia nella versione dell'Esodo che nella versione del Deuteronomio, c'è un passaggio dopo «Io sono il Signore Dio tuo», cancellando il quale perdiamo un pezzo fondamentale di questa memoria. Cioè, «Io sono il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dall'Egitto, che ti ha liberato dalla mano del tuo aguzzino, che ti ha condotto nel deserto, che ti ha fatto sperimentare, eccetera, eccetera, e ti ha aperto le porte verso questa terra, no? Allora, non avrai altro Dio fuori di me», ma dopo che hai fatto l'esperienza, tutta la prima parte non è un imperativo, è un indicativo, è una memoria di quello che è già accaduto. Se non c'è questa memoria, anche il comandamento più straordinario, che è quello della carità, diventa soltanto un cambiare padrone. E quindi credo che il cammino biblico ci insegni effettivamente un percorso, che è questo percorso di libertà, di liberazione verso la libertà, che è in definitiva apertura fondamentale per ogni esistenza. Mi sentirei di dire credente e non. Padre Guido Bertagna, gesuita del Centro Antonianum di Padova, sul tema «Cos'è la carità?», focus di approfondimento organizzato dalla Caritas di Padova. Breve spazio segnalazione: sono aperte fino al 27 aprile le iscrizioni per una proposta regionale «Famiglie immigrate, costruire futuro insieme». L'appuntamento si svolgeva venerdì 5 maggio dalle 9.30 alle 13.30 all'Istituto Salesiano di Mestre, una giornata di formazione per approfondire le dinamiche possibili di accoglienza e inclusione delle famiglie immigrati. Interverranno Oliviero Forti di Caritas Italiana, Don Bruno Baratto di Migrantes Treviso e Maurizio Ambrosini di Mondi Migranti. Per informazioni e iscrizioni contattare la Caritas Diocesana di Padova. Avete ascoltato «Prossimo tuo», rubrica in collaborazione con la Caritas.